Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. È possibile evitare che in futuro eventi come il crollo del Ponte Morandi o i più recenti crolli dei viadotti autostradali si ripetano? Beh, l'idea che sia sufficiente cambiare gestore per risolvere il problema è perlomeno ingenua. Nulla, infatti, a bocce ferme potrebbe garantire che non si ripetano dinamiche come quelle viste in azione nel caso delle infrastrutture gestite da Autostrade per l'Italia, con report fasulli, truccati, eccessiva, diciamo, familiarità fra controllori e controllati e tutto quanto la cronaca ha riportato. Allora, stasera vorrei provare a lanciare una proposta che ha fondamentalmente due pilastri. Il primo è l'introduzione obbligatoria per le più importanti infrastrutture viarie di sensori che ne permettano il monitoraggio continuo e costante da remoto. Abbiamo spesso raccontato di queste tecnologie qui in trasmissione. Il secondo punto dirimente è che i dati generati da questi sistemi di monitoraggio finiscano obbligatoriamente in un database di proprietà pubblica, così da poter essere utilizzati sia dal gestore dell'infrastruttura per una, diciamo, più attenta programmazione delle attività di manutenzione, sia però da parte di chi l'infrastruttura l'ha data in concessione, e quindi nel nostro caso lo Stato, il quale avrebbe uno strumento per vigilare. Ma soprattutto, così facendo, sarebbe, se non impossibile, perlomeno molto più difficile sfuggire alle proprie responsabilità sostenendo di non sapere. E qui parlo sia dei controllori che dei controllati. E di tutto questo discutiamo con Carmelo Gentile, che è professore ordinario di tecnica delle costruzioni al Politecnico di Milano, che da sempre si occupa di monitoraggio dinamico di ponti e strutture storiche, tra cui niente meno che il Duomo di Milano. Buonasera, buonasera Gentile. Ah, buonasera, molte grazie per l'invito. Allora, senta, prima domanda: se tecnologicamente, diciamo, siamo nelle condizioni di mettere in pratica una proposta di questo genere? Beh, tecnologicamente sicuramente. Esistono numerose proposte di sensoristica, ma come lei immagina, il problema non sono tanto i sensori, che oggi come oggi hanno dei costi anche abbastanza ragionevoli, ma è l'analisi del dato. L'analisi del dato sperimentale, che poi ci deve condurre, attraverso l'analisi statistica di serie storiche, a valutare ciò che non è misurabile, cioè la presenza del danno o di un eventuale danno strutturale e dove questo si può essere posizionato. Ecco, quindi lei sta dicendo, precisiamolo subito perché è importante comunque, che tipo di informazioni ci possiamo aspettare di ricavare da questi sistemi di monitoraggio e cosa invece non sarebbe corretto attendersi. Ecco, cosa ci possiamo aspettare e che cosa invece no? Ciò che possiamo attenderci è, come ho detto, che attraverso un'analisi di serie storiche si venga a ottenere in questo momento l'informazione che qualcosa è cambiato, che si è verificato un danneggiamento, e per sistemi di monitoraggio relativamente estesi anche avere delle informazioni su dove questo danneggiamento si è andato a trovare. Naturalmente sulla gravità del danneggiamento e sulle conseguenze sulla sicurezza dell'utente è chiaro che bisognerà investigare ulteriormente. Quindi diciamo che sistemi di questo genere producono dei campanelli d'allarme che poi vanno approfonditi, ma comunque i campanelli d'allarme ci sono. Assolutamente, assolutamente. Allora proviamo a ragionare per un attimo dei costi. Di che cosa stiamo parlando? Qual è il costo di monitoraggio di un'infrastruttura e quante potrebbero essere, secondo lei, le infrastrutture da monitorare? Ma guardi, è chiaro che il costo va valutato molto spannometricamente, anche perché le tecnologie sono molto diverse. Diciamo che potremmo parlare di circa 1000 euro per ogni sensore, potrebbero essere anche di varia natura, montato in opera su una struttura in scala reale, che significa che per esempio per un ponte da 100 metri potrebbero essere sufficienti 12-14 sensori, 15.000 euro. Costo relativamente basso che diventa abbastanza trascurabile nel momento in cui viene confrontato col costo in totale dell'infrastruttura. Certo che è di vari milioni o decine di milioni di euro, questo il rapporto. Ecco, quante potrebbero essere le infrastrutture che potrebbero meritare un approccio di questo genere? Ma generalmente bisogna commisurarsi con l'importanza dell'infrastruttura dal punto di vista del traffico ordinario, certo, e merci. Cioè in Lombardia, escludendo le autostrade, per esempio, potremmo parlare di circa 300-350 ponti. Ecco, quindi a livello nazionale, perché poi tanto... Sono svariate migliaia, sicuramente. Ecco, alcune migliaia. Poi dipende, naturalmente, uno dove mette l'asticella. Bisogna anche aggiungere in termini di costi che non ci sono solo i costi per correttezza, insomma, di installazione e posa, ma poi ci sono dei costi quotidiani legati appunto all'analisi di questi dati. Sì, esattamente. È chiaro che quelli sono più difficilmente quantificabili perché sono anche legati alla tipologia di informazione, certo, alla frequenza con cui questa analisi viene richiesta al gestore per ottimizzare le procedure di manutenzione sostanzialmente. Ecco, complessivamente quindi lei pensa che comunque l'idea sia buona, quindi non stiamo parlando solo di mettere un sistema di monitoraggio, ricordiamolo, ma di avere i dati l'idea in un repository pubblico. Un archivio, lei sì. Dice. L'idea di formare un archivio nazionale, secondo me, è eccellente, perché ha, dal mio punto di vista, almeno due vantaggi fondamentali. Il primo è che ogni proprietario di infrastruttura, ogni gestore, ogni concessionario sceglie la propria tecnologia in funzione anche di quelle che sono le proprie procedure interne di manutenzione e utilizza certamente i dati per ottimizzare le proprie procedure di manutenzione, ma al contempo li rende disponibili. La disponibilità di un archivio su scala nazionale in un tempo, diciamo così, dell'ordine di 5, 6, 10 anni potrebbe facilmente portare alla formazione di protocolli, come accade in medicina. Cioè non ci basta sapere che sta succedendo una novità, cioè si è verificato un danno, ma noi sappiamo che a ogni tipo di segnalazione deve corrispondere un certo tipo di azione, al di là poi che evidentemente questo potrebbe costituire un importante strumento per il controllo a posteriori, per la ricerca e quant'altro. Grazie Carmelo Gentile. Gentilissimo, grazie. Per il momento è tutto, ma domani torneremo su questo tema. Cari ascoltatori, a voi tutti buona serata.